Buonasera a tutti. Benvenuti all'arte del vizio, musica e spazio dal timbro fittizio. Con Dottor Io, Reverendo e Baldambezio, sintonizzatevi e restate sul pezzo. Ebbene sì, ebbene sì. Benvenuti e benvenuti a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Sono le 7:30 passate, siamo in ritardo qui all'Arte del Vizio con il nuovo progetto Spighe nel Fianco, rimescolato fit Fritto le Ska Jazz Ensemble. Yeah. Di nuovo yeah. Qui, ci sono un monte di ospiti speciali. Io sono Palmiro, c'è Reverendo con me in regia, c'è Diesis pure. C'è Albus, abbiamo il batterico Mannaro, vari ospiti, abbiamo l'ospite speciale che vi presenteremo dopo la pubblicità. A brevissimo. E abbiamo Dottor Io che vi passeremo su. Ciao a tutti e tutti. Un grande ritorno del Dottor Io stasera. Mi mancava Frittole, tanto. Grazie di essere qui con noi. Prego. Quanto grande, ti mancava? Grande emozione in questa parola. C'è anche uno che di sicuro ci terrà a salutarvi tutti. Ciao, welcome back to Frittole Studio. Yeah. Delle vibe pazzesche. Yo. Diciamolo. Sonorità veramente vive. Bene, si sboccia stasera. Un po' arrugginiti, anch'io parecchio che non venivo qui a Frittole. Sono molto, molto emozionata. 12 anni che non facevamo l'arte del vizio. 12 anni spaccati quasi. Bene sì, per chi si fosse collegato ora, siete su Radio Wombat, sono le 8 di sera, noi siamo in ritardo di un'ora. Scusate, precisa. Se avete qualcosa da scriverci potete scriverci a frittole@gattini.ninja. Fatelo. Mi dimentico sempre l'email, mi dispiace. Oppure c'è il pad anche? Ma che ne so, ma chi lo sa. Ciao. Non ci scrive mai nessuno. RadioWombat.net. Nulla. È l'unica. E niente, signori ascoltatori e ascoltatrici, questo, quello che state ascoltando è un ambiente sobrio, bianco come le pareti che adornano il nostro studio. E non c'è nemmeno la musica sottofondo. I nostri musicisti ci hanno suonato 2 minuti, si sono fermati a fare delle sigarette. C'è l'aperitivo in corso. Sei un po' molesto, Palmi. Ritorneremo a breve. Dopo la prossima musica. Allora, sì, se volete, mandiamo subito un tappetino. Un tappetino, volete un tappetino subito? No, facciamolo noi il tappetino. Diteci come state, cioè capito, vedi un'amica dopo tanto tempo, gli chiedi no, come va, che fa? Cioè non è una cosa, questo non è un programma a senso unico, capito? Cioè ci vuole il feedback, no? Dovete un po' comunicare, care entità all'ascolto, comunicate. Comunicate con noi, sì. Anche in svariati modi, anche telepaticamente, cineticamente. Fatelo, aspettiamo, è tutto bellissimo, un'altra sera ne sentirete delle belle. Ebbene sì, no, non sappiamo davvero cosa dire. Dopo l'altra. Esatto, vabbè, la sorpresa più grande arriverà proprio agli ultimi 5 minuti, quindi state collegati. No, in realtà noi volevamo solamente suonare, stare insieme e dire poche cazzate. Poi io dovrei essere quello che sta zitto, perché sennò inizio a sparare una dopo l'altra. Esatto. E va bene, fate voi. Facciamo noi. Comunque, vi passeremo al microfono il nostro ospite speciale, no? Abbiamo atteso anche fin troppo. Subito? No. Va bene, ma facciamoli solo dire un ciao. Ok, solo un ciao. Dici ciao. Ciao. Oh, avete sentito questa voce sensuale? So che ci stavate pensando. Ridillo, non è Tony Manero. So che stavate pensando a Tony Manero. No, un saluto a Tony Manero. Chiaramente. Tra l'altro. Ciao Tony. C'è qualcuno che stasera ti farà concorrenza? Ma vogliamo far presentare questo ospite con un brano? Di già. Volete temporeggiare? Facciamo scegliere all'ospite il brano, facciamolo iniziare a suonare intanto, facciamolo parlare con le sue note. Perché non partiamo con un pezzo attuale? Vai. Qualcosa di spirituale. Qualcosa di mai sentito, Frito. Cazzarola. Maestro. Thank you. come un acquazzone estivo, questa musica che ci prende e ci fa sognare già dall'inizio. Questo nostro grandissimo ospite lo vogliamo assolutamente introdurre adesso. Sì, dai, facciamolo. Vai, ormai. Ebbene, questa sera abbiamo qui con noi Oistro Slim. Abbiamo detto. Applausi. Ciao a tutti. A tutti. Ebbene. Raccontaci un po' di te, Oistro. Niente, che vi devo dire? No, chi sei? Come mai sei finito qui? Che è successo? È stato solo un inciampo nella tua vita? È stato un bel inciampo. No, dai, diciamo che conoscevo Benedetta. Ah, non si può dire. No, no, volevo dire, gli è venuto un lapsus di Diesis. No, Benedetta oggi non c'è. Hai rovinato tutto, Palmi. No, come ho rovinato tutto? Non ho detto nulla. Diciamo, sì, diciamo che una nostra amica Benedetta, che stasera non può essere qui. Un'altra nostra. L'abbiamo invitato a questa trasmissione perché, insomma, lo seguiamo da tanti anni. Tutti i suoi concerti praticamente. Poi hanno cominciato a posticipare, no, la settimana prossima, però intanto c'è la vigna, poi c'è il pane, poi sì, la Frittole Studios, c'è un sacco di roba. C'è un laboratorio. No, infatti Oistro Slim, dovete sapere che si era così tanto rotto le palle di essere posticipato, a un certo punto si trovava in una zona dove? A Grosseto? Eravamo a Grosseto, quindi ha detto vabbè, intanto che questi mi paccano, perché io no, la prossima settimana, non fra due, fra un mese, allora sai, io vado in piazza, ha dato vita a questo progetto Spighe nel fianco, che ha esordito tra l'altro a uno dei nostri eventi speciali della settimana, no? Chiaro. A Piazza Masso, Piazza Sasso, Piazza Tresc, no, Piazza, com'è che si chiama? Trasto. Piazza Tasso, ah, bravo, grazie Agus, grazie. Ne sa più una più del diavolo. Del diavolo. Sì, esatto. Abbiamo avuto ospite anche lì. Sì, e quindi l'abbiamo visto suonare davvero, abbiamo detto cazzo, ma questo è bravo. E quindi allora abbiamo detto ok, dai, veniamo a suonare in studio. Ed eccoci. E dunque, sì, sappiamo che insomma stai registrando un EP, giusto? Sì, sono in via di registrazione di questo EP. Sei contento? Sì, molto. Cosa vuol dire EP, scusate? EP è un album corto, cioè invece di essere di mezz'ora sarà così 10 minuti, 4 canzoni. Sì. Ma quindi non sarebbe quindi AC, album corto? No, cosa vuol dire EP? Dici cosa vuol dire EP, se sei un vero musicista, diccelo, ci hai chiesto le domande scomode. Extract, un estratto del... E la P? Product. Ah, un estratto della produzione. Andremo a controllare su Wikipedia. Va bene. Ma facci sentire un po', dai, siamo qui per suonare, siamo qui per ascoltarti. Facci sentire un tuo pezzo. Faccio un pezzo? Ma sì. Allora, questo pezzo si chiama Day by Day, è uscito, cioè l'ho scritto un annetto fa, in mezzo alle nevi, con il mio ero nel furgone, facevo un freddo cane, e niente, per stare al caldo mi sono messo davanti col riscaldamento ed è uscita sta canzone. Va bene, ti attacco il tuo microfono. Vai. Day by day I try to figure out who I am. There's no steady answer, there's no straight path. Asking to myself, who do really am I? Oh, I see the darkness, oh, I see the light. Did we ever never exist? As human forms, maybe we are one and above. Can we walk backwards to the beast? And Zipping round the world way faster than you. Didn't really give me answers, didn't really show the path, 'cause feeling just emotional is nothing brand new. Oh, well, I'm crawling, black Libra's calling. Did we ever never resist? Look at the trees, they are ready to overwhelm. Backwards to the beast. My desire, my desire is to grow till that day. Senti, ma per le persone ignoranti come me che non sanno l'inglese, no? Cosa parla questa canzone? È un testo esistenzialista. Cioè, si chiede chi sono, sostanzialmente. Dice, giorno dopo giorno provo a capire chi sono e non c'è una risposta statica. E questo è un po' il succo della canzone, che le cose continuano a cambiare, noi stessi continuiamo a cambiare e quindi si cerca di adottare un approccio più fluido piuttosto che un individualismo sterile, diciamo così. Eppure le domande non cambiano mai, sono sempre le solite. Cambiano le risposte. Beh, comunque diciamo rispecchia un po' che quello che è il tuo stile di vita, no? Perché ora diciamo ai nostri ascoltatori, te comunque suoni per... suono per strada. Per strada, sì. Cioè per vivere comunque, per cercare di vivere, per sopravvivere o per campare, suoni comunque a giro, ti muovi e fai questo. E cerchi di farlo, diciamo, per viverci. Sì, per lo faccio come guadagno, ma soprattutto anche come passione, cioè nel senso... Mi sono trovato a suonare per strada un po' per caso all'inizio, poi ci ho preso gusto, come dopo c'è anche un po' dopo la dipendenza dal pubblico, sai, quando ti getti sulla folla, dopo non riesci più a farne a meno, cioè... Sappiamo qualcosa anche noi. Sì. No, guarda, io ho dovuto disintossicarmi. E quest'anno che hai fatto? Quest'anno pandemia. Nefasta. Come andata? Nella pandemia in realtà si è rivelata un buon margine d'azione, perché essendo tutti le sale concerti, gli eventi annullati, erano tutti per strada a un certo punto. Cioè si poteva uscire ma non si poteva entrare nei locali, quindi la gente era tutta in piazza, la gente era tutta al parco. E quindi io non dovevo neanche andare. Dovevo neanche far fatica a cercarli, erano tutti lì. E dove ti trovavi durante la pandemia? In che parte del mondo? Eri qua in Italia? No, quando è scoppiata ero in Francia e stavo suonando come piano bar in una stazione sciistica. In due o tre locali. Poi da un giorno all'altro, ed è lì che ho scritto la canzone, che ero lì al freddo, in furgone, dormivo in furgone per suonare in questi hotel pseudo lussuosi, però non volevo spendere un euro, quindi alla fine ero lì, almeno 10. E solo che un giorno la proprietaria di un locale mi fa, guarda, dalla settimana prossima è tutto chiuso. Allora ho preso e sono andato... Prima che chiudessero le frontiere sono andato in Austria, a Vienna, dove ho degli affetti, delle persone che conosco, un posto che mi poteva ospitare, alla fine si è rivelato anche una scelta abbastanza sensata, perché poi Vienna, dopo tutto, diciamo, dopo tutto non è stato neanche un lockdown così, così speso. Sì, dai. Hai avuto tempo per scrivere, per hai avuto estro creativo o ti sei sentito bloccato? No, non mi sono sentito particolarmente bloccato, mi sono sentito... Sì, ho un po' accettato questa cosa, cioè ho cercato di non... di comunque uscire, di comunque vedere persone, di... anche nel lockdown più stretto mi sono sentito comunque attorniato da persone affini e anche di altre case, di altre... insomma, preso un po' quello che veniva. Ma poi stare vicino a delle persone care è stato il massimo. Ottima situazione. Sì. Bene. Prima di passare alle domande veramente scomode, potreste fare un altro pezzettino per noi? O anche no, anche non tutti insieme. Potremmo fare il blues. Quello che volete. Questo è un pezzo che faccio per strada. Un blues in me. Il blues in me, Radio Wombat. If I had possession over the judgment day, if I had possession over the judgment day, girl that I'm loving would have no right to pray. I went to the mountain, I looked as far as my heart could see. head for my house, and I slowly walked away. Oistro Slim, ragazzi, yeah. Signore e signori, yeah. Grande Oistro. Senti, ti volevamo fare una domanda, Oistro. Voi... No, prego, prego. Ci chiedevamo come mai hai scelto l'inglese come lingua per le tue canzoni. To be more international. Cazzo. You know, no, when you travel, you want that your message... Travels tu, una prospettiva ricchiate. Universale, insomma. Va bene. Ma come fai ad esprimere i tuoi veri sentimenti in una lingua che non ti appartiene? Le tue radici dove sono? Le mie radici sono un po' come le rose del deserto. Conoscete le rose? No. Quelle che rotolano. Non quelle che rotolano. Nei momenti di imbarazzo. Però... Senti, dici un po', visto che viaggi molto, suoni per strada, quali sono le piazze più belle in cui hai suonato? Quelle migliori in cui ti sei sentito più... più a tuo agio, un pubblico migliore? Allora, parlando di Vienna... Comunque, Karlsplatz. Che tra l'altro è... C'è anche della cronaca recente. Karlsplatz l'altro giorno c'è stato uno scontro fra bivaccanti ubriachi e polizia, in cui sono scattati manganellate, spray peperoncino perché per un bivacco lì. E loro hanno di solito il mio pubblico, è un po', mi dispiace. Notizia fresca, no, fresca. Solidarietà ai bivaccanti di Karlsplatz. Sì. Ok. Cavolo. Certo, peccato. La repressione della movida colpisce pure nei paesi, negli altri paesi. Non potevamo immaginarlo. Strano, no. Ma è così. Peccato. Vabbè, io sono... Grazie, Vienna. Sì, poi altre piazze anche in Italia, cioè, ho suonato più fuori che in Italia, però posso dire, so, anche a Marsiglia non mi sono trovato male, al vecchio porto, anche se però le situazioni sono un po' cambiate negli ultimi anni, era più viva, anche... Poi vabbè, pandemia, non pandemia, comunque la gentrificazione fa sempre il suo effetto. Dove c'è quella tettoia a specchio? Sì, la tettoia a specchio. Wow, che posto. E una volta ci suonammo con un trio sotto la tettoia, e mentre suonavamo hanno acceso le luci. Quindi avevamo pure... Lampeggianti. Sì, c'era lo specchio con le luci tipo palco. Era per Natale, per Capodanno, cioè era sotto le feste. Scenario perfetto, scenario insomma, perfetto. Quindi sappiate, artisti di strada di tutto il mondo, che alla tettoia specchio al porto di Marsiglia è un ottimo posto per suonare sotto Natale. Sì, se no anche Praga, Berlino, mi sono trovato bene. Sì. Praga un po' di problemi con la polizia, Berlino meno. È giusto, perché poi parleremo anche di questo aspetto legato propriamente al lavoro di strada e ai suoi pro e ai suoi contro. Visite più o meno gradite. Ne parleremo. Intanto vedo che qua la nostra Frittole Ska Band Jazz Explosion sta Experimental Blues, sta già, non sta nella pelle. Sta partorendo qualcosa, non si capisce. Sì, poco a poco. Se posso avere una richiesta, ogni tanto un giro diverso. Una variazione. Una variazione. Sta diventando come Diesis ormai. Pignolo? Stupidi. Fate voi. Ma come, Palmi? Sei il nostro... Ma che io non sei so la fare... nostra testa d'ariete. Non so fare variazioni. No, dai, no, ti dai. Vogliamo bene lo stesso. Cosa? Cari ascoltatori e ascoltatrici. Vuole fare. Ah, no. Stasera molto strano, molto strano. C'è dissidenza? Timidezza. Da parte di chi? No, ma perché non ci sono? Cosa non abbiamo? Va, basta parlare, dai. Siamo anche più del solito. Forse è questo il punto. Allora, sì, visto che abbiamo parlato di Vienna, vorrei fare un pezzo dedicato a una persona a me molto cara, Sara. Questa canzone si intitola così, si intitola Sara. E un appello a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori: quando la incontrerete, chiedetele: ma tu sei Sara della canzone? Giusto per cominciare con quella giusta dose di imbarazzo. Ah. E... grazie, Estro. Sara, looking back, it's been a while since that day on the rails, trees all around, a red flag we found, creatures of a disappearing world, we laid on the rocks. Ah no, mi sono distratto un attimo, ragazzi, cosa stava succedendo? Ma come? Abbiamo spento le luci. Ok, ricomincio. Sara, looking back, it's been a while since the day on the rails, trees all around, a red flag we found, creatures of a disappearing world, we laid on the rocks, salt on your skin, or waves in the wind. There was something that was never said, I guess we can still wait to talk about my tears and fears. Oh yeah, just hold me and tell me how it's good to share this time with you, together then we dive. Sara, this city looks so cold, these blankets are not the cleanest on earth, we don't miss the verve. Outside, something's calling us both, we will figure it out, using the mouth, together we shout. This love is bigger than us, we will try to open up all the latches. I feel like our love is changing all time, ready or not, here is my heart, bring the matches, the matches. Monsters swinging in my mind, the dark against the bright, I wish I can pretend to stop it, no, tomorrow, sleeping on your breast, beast will find the nest. The moon will pull the tide. Sarah, looking back, it's been a while since the day on the rails, trees all around, a new shape we found. Rieccoci, rieccoci. Arrivato. Le lanterne infuocate che volano nel cielo. Sì, ti vogliamo lanterne... conoscere, Sara, ti vogliamo conoscere. Davvero. Io ho i brividi. Io solo ho capito dormire sul le tue tette. Ho sentito solo quello. Forse era, dormire, molto alto. Dormire sul tuo seno. Era un po' corto. No, forse era un po' più romantico. Ognuno ci vede, con le libere associazioni che vuole. Oh. Giusto. Salutiamo Sara se ci sta ascoltando, sappiamo. E salutiamo anche Lilù. Salutiamo anche Lilù che ci ha scritto. Ciao Sara, ciao Lilù che ci ha scritto. Ciao ragazzi VVB. Vi voglio in bene, maiuscolo, bene. Non lo so. Vi voglio bene. Spaccate sempre tutto in questa domenica grigia e tempestosa. Effettivamente c'è un cielo azzurro. Ciao Lilù. Ciao Lilù, speriamo che tu stia bene per vedere questo cielo tempestoso e... Olè! Ah, si sboccia! Oh, comunque mi è piaciuto l'urlo ad un certo punto. Io l'unica parola che ho capito. Come parevi? Stato anche partecipato. Sì. Appena uno comincia a urlare si attacca. Oh! Sai... C'è bisogno di sfogarsi. Ma passiamo alle domande veramente scomode a questo punto. Dici un po', no, ogni artista ha una visione di sé, diciamo, particolare. Ma volevo chiederti, a tuo parere, quanto è distante la visione che hai di te rispetto a quello che vorresti essere musicalmente? Diciamo che è una domanda che ho smesso di pormi, perché tornando all'argomento della prima canzone, cioè lo trovo deleterio. Trovo deleterio questo costante crearsi un modello irraggiungibile solo per farsi del male alla fine. Cioè, ho passato una fase della mia vita in cui ero in fotta con qualche artista e vorrei diventare come suonare così, cos'ha. E può darsi che per qualcuno funzioni, ma non per la mia personalità, quindi preferisco adottare delle strategie più punk, anche se magari non suono punk, però più cioè più terra a terra. Viva la semplicità e... sì. Viva la semplicità. Viva il punk. Vabbè, è una risposta molto coerente, mi sembra, sì, che il nostro ospite abbia un filo logico nella vita che segue, al contrario di noi altri. Te quali domande scomode? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire oistro? Ah. Cioè, è semplicemente un nome inventato. No, non è. Cioè, mi immagino inventato. Oistro magro oppure alto e snello, slim, no? Sì, okay. Oistro slim. Allora, cosa vuol dire oistro? Beh, slim, se foste qua in studio lo capireste. Sono alto. Ah, ok, vedremo. Però oistro è un nome che ho trovato leggendo un libro di mitologia greca, che è una sorta di alter ego di Pan. E sostanzialmente avete presente i tafani? Quelle mosche che... Chi è che non ha presente i tafani? Praticamente una buona parte delle storie greche iniziano con un tafano che si mette a scassare il cazzo, comincia a inseguire un personaggio e questo qua sbrocca, ammazza qualcuno, cioè... Niente. Tafani di me. Sì. E quindi è un po' il simbolo della follia, però quella follia come motore delle storie, perché fino a che non arriva il tafano, cioè paradiso terrestre, tutto tranquillo, le ninfe negli stagni, i fauni nei boschi, cioè tutto in ordine, gli dei stanno lassù. Però dal momento in cui il tafano si mette a rompere il cazzo, okay, okay, cominciano le storie. Quindi Oyster è questo tafano praticamente. Sì, sì. Un elemento di rottura nella continuità del presente. Va bene, bello, bello, un bel nome. Io pensavo significasse ostrica, sinceramente. Ostraghetta. Ostrica. In greco, sì. In greco stretto. Va bene, grazie. Comunque era un bel pezzo. Grazie a voi. Va bene, si continua a suonare quindi con questo progetto. Oyster Slim, delle spighe nel fianco, fit. Salutiamo i compagni del Rosa Nera che hanno rioccupato il posto finalmente. Andate. Emozione, signore e signori. Si sente un po' troppo. Allora io non voglio fare l'offeso, ma insomma ci sono stati dei cambi. Palmiro permaloso. Che è successo? Non lo so, che si è sentito? Palmiro petaloso. Come ci sono stati dei cambi? No, ci sono stati. Ho fatto una reazione. Ok, scusa. Dai, stai sul filo. Sai che non me ne sono accorto? Stai sul bianco. Petaloso, palmiro petaloso, palmiro petaloso, palmiro. Yeah. No, mi è piaciuta molto. È stato un bel pezzettino, bravo ragazzi. Allora, salutiamo le nostre otto entità all'ascolto. Uy. Sono il nostro stesso numero in studio. Siamo noi stessi ad ascoltarci. E ricordiamo che potete scriverci a frittole@gattini.ninja. E niente, volevo un commento da questa canzone. Sì. Ormai. Non c'è poesia che possa reggere il confronto con questa musica in frittole studios, comunque. Potete chiedere quanto volete, ma non esiste un pozzo senza fondo se non la musica, ecco. Ti stavo facendo la... il tappetino, ascolti, il tappetino di Palmiro. Ascolti. No, qui in frittole le rime non vengono se non spontaneamente. Altrimenti non ci sarebbe questa energia latente che ci fa viaggiare con la mente sempre nel presente, andare più lontano senza niente nelle tasche, solamente col futuro tra i denti. Questa è una rincorsa che non ha mai fine e un correre che non ha mai un arrivo, un traguardo. Spengeremo un giorno, non so quando, eppure lo sento che quel momento è così lontano, eppure così vicino. Questi bastoni mi portano a quando ero bambino, giocavo in campagna con il mio vicino, e questa base non fa altro che rammentare quanto fosse bello stare nel niente, a fare i propri giochi come un deficiente, qualche anno sulla schiena, e proprio sì, non si sentiva niente, se no la propria voce, i propri lamenti, la voglia di vivere. Guidato da questa forza interiore di voler scoprire il mondo con una lente di ingrandimento, senza che nessun presentimento, nessun sentimento ti entrasse dentro. Una corazza che non poteva essere scomposta, ma solamente essere messa a posto e ricomposta ancora un'altra volta. Quanto era bello stare lì con l'erba tra i piedi, un pensiero che volava lassù, come un aquilone portato dal vento che veniva da sud. Il caldo entrava e l'inverno finiva, la primavera sbocciava e l'autunno appena cominciava, le foglie cadevano e io ero contento e non smetterò mai di esserlo. Un'altra volta sulle dune di un deserto come in una storia storia che inizia con c'era una volta, eppure non finisce con felici e contenti per il resto della loro vita, ma solamente con altri contenuti che tengono in vita la storia stessa. Avere accanto un'anima perplessa che si domanda anch'essa quando è oppure dove. Eppure siamo già qua, siamo a fritto nel cielo come delle stare. A quel pallone mi ricordo come il mio nome è scritto sulla pietra di qualche posto altrove, in una dimensione che neanche sento, eppure non conosco, ma non mento. La vita è infinita, eppure va vissuta per capire, non è mai finita. Scandaloso, scandaloso, uno ci fai volare, ma è commosso, ma è commosso. Wow. Volevo fare un'altra domanda al nostro ospite, magari chiedergli se poi voleva farci sentire un altro pezzo. La mia domanda è, cioè, quanto si parlava prima di ispirarsi? Di sbirri, controlli, quanto è rischioso il tuo lavoro di artista di strada? Rischiosissimo. Peripezie, ogni giorno un artista di strada si sveglia e comincia a correre. No, a parte gli scherzi, dipende da molti fattori. Dipende dalla faccia da scemo che si ha, perché comunque il finto scemo con gli sbirri funziona sempre. Ok. Ma io sono andato in comune, era chiuso. E scusa, ce n'era un altro lì. Io ho chiesto a lui. Esatto. Quindi ci si improvvisa un po' così. Poi comunque, cioè, lo sbirro crucco riesce a gestirsela meno questa, cioè, mentre lo sbirro italiano magari è più abituato a questo tipo di recitazione, lo sbirro crucco in buona fede sarà vero. Non si tratta pur sempre di un onesto cittadino. Sì. Poi se non funziona parte la storia, ma io cosa devo fare per vivere? Il Covid. Ah, la pietà, inizia la pietà. A fare pena. Inizia a fare pena. Io avevo un tour in Giappone, me l'hanno cancellato. C'è stato a Fukushima. Così. Hanno lanciato l'atomica. E se non bastasse, dici, vabbè, me ne vado. Ok. E... tre livelli diversi. Sì, esatto. Comunque, cioè... Senza ripercussioni, di solito. Finora non mi hanno mai requisito gli strumenti o... Hai mai corrotto qualcuno? No, quei soldi no, però ho promesso una canzone una volta a un poliziotto. No, ha funzionato. Che multa! Macchiata così, no? Mamma mia. Ha funzionato? No. Forse no, forse no. No, non ha funzionato. Non gli piaceva, non gli è piaciuto. Guardate, apprezzano tutti, apprezzerete anche voi. Fatemi un attimo per convincervi. Se la dedico, no, niente, non c'è stato niente da fare. Ma te l'hanno fatta dedicare o no? No, no, no, no, no. Non ci ho provato. Ma era fuck da police? Cioè, avevo qualcosa pronto, però comunque no. Cioè, era comunque rischioso andare... Sai, con gli strumenti dietro. Cioè, sempre paura, sono cose delicate, sapete, cioè, se si spaccano, li sequestrano, io finito di lavorare. Cioè. Ok, ok. E noi diciamo che solitamente sono gli sbirri pericolosi, no? Ma la gente, hai mai avuto problemi con la gente? Con la gente? Eh sì. Sì. Gente, magari non lo so. Gli ubriachi molesti. Ma sì, mi immagino anche solo il proprietario del ristorante. Vabbè. Che esce. Oh, scusa, cioè, vai da un'altra parte, mi blocchi la clientela. Ho avuto i ristoratori che hanno chiamato loro la polizia. Come anche i ristoratori che invece mi hanno portato fuori una birra o un panino. O il cameriere che mi ha dato le mance, le sue mance, ha preso delle... No, grazie. Però, no, con... diciamo che il problema più grosso sono o i vicini. Una volta ho sfiorato una secchiata d'acqua. E... sì, gli ubriachi molesti. Quelli che ti vengono a cantare al microfono. O... ti si mettono a toccarti il manico della chitarra mentre stai suonando, o anche il furbo che aspetta il chitarrista con gli occhi chiusi per andare nel cappello. No, sì. Da lì ho imparato a suonare con un occhio sempre aperto. Vabbè, ti è successo che ti ha rubato i soldi dal cappello mentre... Ti hanno trovato. Ok, ok. Mentre eri nella trance artistica. Magari sì, quando avevo gli occhi chiusi non lo so. Non lo puoi sapere, dato il fatto. Ma invece senti un'altra domanda, che io non essendo insomma, nell'ambito del genere, in questo tipo di lavoro, ecco, non ci sono finito. Tra gli artisti di strada invece c'è, non so, un codice non scritto. Sì. Non so, portaci con te. Raccontaci in queste qualcosa. Tue avventure, raccontaci un po'. Allora, prima di tutto ci sono delle distinzioni antropologiche. Sentiamo. Ci sono i circensi, i musicisti, cioè quel circensi o comunque spettacoli di strada, i musicisti da passaggio, i terrazzari, sono quelli che vanno ai tavolini, e gli studenti fuori sede che vanno magari per... così per sfizio, no? Fare qualche spiccio. E loro, fra l'altro, se gli studenti fuori sede sono quelli che hanno più permessi di tutti di solito. Quindi quando tu arrivi lì da abusivo ti dicono, ma tu ce l'hai il permesso? E lì devo andarmene. Però rispetto... sono i territori e insomma li tengono sott'occhio, l'artista della strada, la sua strada. Perché allora... gli studenti borghesi. Però c'è un codice non scritto di rispetto, soprattutto fra circensi, gitani e musicisti di un certo livello, ci si rispetta, insomma, a livello di attitudine, non per forza di bravura tecnica. Cioè, quando uno un attimo si vede che comunque è il suo lavoro, ci si parla, ci si dice guarda magari qua sono già passato, vai in un altro posto, ti scambi qualche info, ti scambi qualche info, però appunto le info girano solo fra gente che si rispetta a vicenda. E nelle tue avventure è mai successo, non so, di trovare modo di collaborare con qualcuno per strada, no? Improvvisamente, come una gem, no? O un ritrovo spirituale, sì, in mezzo alla Fifth Avenue, non so, perché giri il mondo. Mi è capitato più volte di gemmare, di improvvisare con gente che mi chiedeva semplicemente facciamo un pezzo assieme. E poi si smezza il cappello. Come no, funziona qua? Come funziona? Allora, se si fa tutto lo spettacolo assieme, sì. Se no, ci andiamo a bere una birra. Se facciamo una canzone assieme, dico guarda il cappello, poi andiamo a berci una birra. Cioè, ok. Manca sulla spalla. Però l'aneddoto più divertente mi è capitato quest'estate, quando tre ragazzini di 9 anni, due appiedati, uno in rollerblade, si sono messi a percularmi mentre suonavo. Che io ero davanti a una terrazza di una pizzeria, loro si sono messi a percularmi facendomi i balletti dietro. Io gliel'ho rigirata contro, finendo il pezzo, dicendo un applauso al corpo di ballo. E lì basta, abbiamo fatto tutto il resto dello spettacolo assieme, in cui loro ballavano, e alla fine ho mandato loro, mentre quello in rollerblade rimaneva con me a fare l'ultima canzone, loro sono, gli altri due sono, li ho mandati col cappello fra i tavoli. Questo è sfruttamento minorile. Senti un po', vediamo fin dove questo cosiddetto sfruttamento minorile. Ragazzi, è una vita difficile per le tratta di questo cappello. Io l'avevo promesso, cioè pubblicamente, prima di mandarli, e avevo già fatto il contratto, nel senso che arriveranno 2 euro a testa. No, una paga veramente. Era un bambino di 9 anni. È ottimo. Quando il bambino gelato, è uno spettacolo di 2 euro, guarda, si piglia scifoni. E aspettato batteri con mannaro con le sue. Però uno dei tre è stato molto astuto, perché mentre gli altri sono tornati appunto dai genitori per andare a mangiare il gelato, lui si è fermato con me a tu per tu. Mi ha parlato un po' di un business plan. Attenzione. Quello che è monopattini? No. Il più sveglio. Il più sveglio dei tre. Quello che i pattini era un po' il ballerino d'artista, no? Lo spirito libero. Sì, il grande ballerino. Notevolmente stupidi. Gli artisti, no? Cioè, hanno poco senso per gli affari. Sì, indubbiamente. Mentre il suo amico aveva già lo spirito da manager. E io detto, guarda, facciamo tutte le sere. Tu manager, quanti anni ha? No, dai, cosa ti ha detto? No, ha fatto una constatazione, ha fatto ma quanto tempo hai suonato? E ha lanciato una stima del contenuto del cappello che poi si è verificata quasi giusta. Cioè, quindi io me li aspetto di vederli loro tre quest'anno, torno lì e li vedo loro col loro spettacolo. E tu senti a fargli dietro il balletto, e ti prendi il manager giovane. E questo dove hai detto che è accaduto? Questo è accaduto in Svizzera. Ah, in Svizzera, vabbè. A Vevey. Nel cantone italiano? No, nel cantone francese, nel paese di Charlie Chaplin, il cantone francese. Cioè, posto molto chic. 2 euro dei bambini svizzeri. 2 franchi. E ancora meno. Non li hanno tirati dietro. Quanto è passato? Quasi un anno? È passato quasi un anno. Saranno diventati 17-18 euro. Ma di sicuro. Li hanno investiti. Secondo i canoni degli interessi delle banche svizzere. Sì. Va bene, dai, hai dato un futuro a una classe minorile. Anche Babberon dei Babberoni alla fine è partito un po'. con un pennello. Con un pennello. Centesimo, sì. La forse. Grazie, signor Slim. Finalmente potrò prendere quel paio di scarpe che sognavo da tempo. E poi ti verranno a cercare per farti fuori, però, ad una certa. Sì. O per insegnargli... le arti dell'intrattenimento. No, non ho niente da insegnare in realtà. Ma non è vero, noi stiamo insegnando molto. Questa è una puntata molto interessante. Ci scrive, ci riscrive Lilù dicendoci: super interessante questa puntata sugli artisti di strada, vorrei essere a suonare con voi. Grazie, Lilù. Grazie, Lilù. Grazie, Lilù. Grazie, Lilù. Vieni la prossima volta. Sei sempre la benvenuta. Tu lo sai, sa, però non viene mai. No, si fa desiderare. Manieristico Palmiro. E senti, fatti sentire un altro dei tuoi pezzi. Giusto. A questo punto, visto che ci ha raccontato insomma un po' del. Beh. Un po', sì. Un po'. Visto che siamo qui. Hai dedicato una canzone a questi bambini? No, però ho una canzone che penso sia particolarmente affine con Frittole. Ha un testo vagamente agricolo. Sempre in inglese? Sempre in inglese. Ok. E si intitola? I won't be there. Vuoi stare io qui? No, no, io non sarò là. Non sarò là, ok. Beh, so l'inglese. This is the reason. Proceeds with a smile, looking forward to the water drenching the ground. Yo. Scusa, ma per chi non parla bene l'inglese? Piccola traduzione. Il ritornello. Allora, perché non hai paura di morire? La canzone fa più o meno. Oggi ho visto arrivare il temporale che porta il vento, porta la pioggia, ed io spargo semi con un sorriso, pregustando l'acqua impregnare il terreno. Un giorno, tra parentesi, questi semi cresceranno fino al cielo, cambiando foglie e donando frutta ai volatili, agli uccelli, che con le loro ali sapranno portare i nuovi fiori, i nuovi frutti, i nuovi semi molto più lontano. E il ritornello fa: io non sarò là per vederli crescere, per vederli nascere, per vederli sorgere. E sicuro che non mi importa, non si sono attaccato, ed è questo il motivo per cui non ho paura di morire, sostanzialmente. Bello. Bellissimo. Io. Davvero. Complimenti. Di nuovo complimenti. Ci guardiamo smarriti. Sì, sono stregato in questo momento. A parte pure io, il tempo di riflessione. A parte Lilù che ci scrive che Dottor Io è il solito simpaticone e non viene qua perché puzza. Dottor Io puzza. Ti conviene non dire niente in risposta. Lo sapevamo tutti che Dottor Io puzza. Allora, visto che si parla di alberi, di natura, Portiamo una lettura anche questa sera, finalizzare a tutta questa musica. Un po' di cultura. Un po' di cultura e contenuti. Possiamo fare un po' di colonne sonore. Esatto, mi piacerebbe molto. Culturale. Ma che tipo su che linea? Linea arborea. Tratto da Humus, Diario di Terra. Bianca Bonavita. Il modo in cui la grafiosi ha contagiato gli umani non è ancora stato scoperto. C'è chi dice che il contagio sia stato causato da una mutazione del male, che dopo aver decimato la popolazione adulta degli olmi, ha dovuto adattarsi per sopravvivere a parassitare altri organismi. C'è chi dice che la grafiosi umana sia invece un ceppo indipendente da quella degli olmi e che il male fosse dormiente in noi da generazioni, in attesa soltanto delle più idonee condizioni ambientali per potersi sviluppare. Qualunque siano le cause, è ormai certo che gli esemplari della specie umana rinsecchiscono a milioni sin dai primi anni di vita. Il male si insinua a pochi centimetri sotto la coscienza e non c'è modo di accorgersi del contagio. Inizia a scavare le sue gallerie indisturbato, protetto dal fragore di giorni per lo più uguali a se stessi. Disegna gradualmente il vuoto percorrendo i canali sotterranei del sistema linfatico e quando, a primavera, ci si accorge che il ramo più bello, quello di cui andavamo più fieri, non presenta nemmeno una gemma, allora è troppo tardi. Di lì a poco non saremo che tronchi cavi e prosciugati, legna da ardere il prima possibile. Il mio caro olmo, custode di tutti gli orti passati, è l'ultimo grande olmo della collina. Gli altri sono poco più che arbusti destinati a seccare allo scadere dell'infanzia. Si dice che l'olmo campestre non sia a rischio di estinzione perché il fungo della grafiosi, l'ofiostoma novo ulmi, non colpisce le giovani piante, almeno fino a quando non raggiungono i 3 metri d'altezza. Quanto tempo abbiamo a disposizione prima di essere colpiti dalla nostra personale forma di grafiosi? E se non fosse soltanto una questione di particelle di tempo, di semplice accumulo di giorni? Perché alcuni olmi sopravvivono all'infanzia? Cosa li rende diversi dalla schiera di soccombenti, dalla miriade di creature inessecchite e svuotate che continuano a ondeggiare per anni in attesa della crepa definitiva? Vaccino dell'anima in grado di sciogliere le occlusioni del male, gli ingorghi di putridume. Invano siedo in ascolto all'ombra del grande olmo, speranzosa di carpire un segreto. Lo cerco nelle rughe della corteccia, passeggiando lungo i sentieri delle formiche. Lo cerco nei semi coriandolo, tessere, medaglie, pianeti, ventagli. Lo cerco tra le radici terrose nella terra radiciosa. Scavano le mie mani nella terra farina che lievita senza sosta, un pane che non ci sarà dato di mangiare. Lievita la madre sotto i nostri passi distratti, lievita la carne dei nostri vecchi sepolci. Lievita il magma dei nostri api e noi, orfani per sempre, siamo le bolle d'aria che esplodono sulla superficie gorgogliante della terra. Il grande olmo. Da tempo gli alberi hanno smesso di parlare agli umani. Non saprò mai come sfuggire alla mia personale forma di grafiosi. In realtà è quasi certo che io l'abbia già contratta e che ancora non sia in grado di vederne l'effetto sui miei rami. Sono cieca a me stessa, al mio sangue, alle mie cavità, ai miei organi pulsanti, ai miei corridoi, alle mie vene tortuose. La mia coscienza è cieca al misterioso fluire della vita, al suo scorrere zampillante negli oscuri condotti del corpo, all'insediarsi inesorabile del male. Non fa che remare la coscienza sulla sua gondola di frivolezze ignara, troppo impegnata a schivare le onde degli accadimenti per accorgersi delle più impetuose correnti che scuotono l'abisso. Non può la coscienza vedere la lenta erosione del male, il vorace prosciugarsi della linfa. Orfana di noi stessi e la coscienza. Se ne va, sciocca, boriosa tra le cose. Dimentica del suo essere animale, alga, muschio, olmo. La grafiosi intanto ha già costruito la sua metropoli sotterranea. I suoi minatori hanno già picconato le pareti della nostra integrità. Non c'è antidoto. Non resta che un colpo d'ascia. Netto e deciso. Thank you. La frittolesca jazz ensemble e spighe nel fianco. Va bene, va bene. Allora, siamo giunti a che punto della puntata? 21 e 21. È finita la birra. Wow, è finita la Qualcuno birra deve andare a prenderla. Rinforzino. Qualcuno dopo lo rinforzino. Grande. Il garzone qua. Presentiamo anche il nostro amico garzone che si sta offrendo del rinforzino. No, non lo so. Non lo sai? Non lo so, deve scegliere il suo acronimo. Abbiamo già fatto il legame, però. No, vabbè, che se lo scelga. Niente, c'era uno che stava partendo, c'aveva il microfono mutato. Il batterista infernale si è mosso dalla sua postazione. Parti. No, batterico Mannaro non vuole. Non vogliamo essere mangiati dal nostro batterico Mannaro. Dottore? Pronti ad accelerare? Un accento sulle varie, un'automobile che corre veloce sulla strada verso un'infinita luce. Non c'è nessun rimpianto, non c'è nessun ostacolo. Corro sempre ogni mattina, mi sveglio verso il caffè del giorno prima. Io lontano da ogni meschina intuizione, in un mondo in cui non voglio andare altrove se non qua. Colpisco il muro, scalpisco il muro del suono. Quando scendo in campo come un grande zappo, la terra con le mani, uno strumento a smano. Quando fa caldo io voglio la pioggia, eppure non sento la voglia di andarmene. La batteria si interrompe, il battito mi esclude, la musica non mi concede niente se non un pianto nel presente. Vorrei tanto andare più lontano, più velocemente come un vulcano che esplode in una notte di un temporale in un inverno così freddo. Io che guardo il vuoto sulla sedia che sto in cucina mentre guardo la finestra dove non so. La luce mi sfiora eppure il bicchiere che ho in mano non è mai troppo pieno. Furioso nella corrida che corre come se non ci fosse nessuna impronta di rosso o sangue, è impazzito solo per il sole, lo porta a trovarsi un posto dove non vuole stare fermo. E più ci penso io non sento, è un suono che mi sta dentro. Il cuore batte veloce, il temporale in furia eppure c'è il sole. Batteria ed il basso che suona come così, un suono che squilla la notte tranquilla se sei con me. L'unica luce che voglio vedere sei tu. Attimo senza il treno che ho perso nel momento che precede la mia attesa. Non prendetela male se ti tiro un'offesa o due. Le parole fanno male, ma la tua voce mi fa guarire. Lontano con te in un mare così blu che risplende da solo. Andare sulla luna con un'astronave in un viaggio così veloce che non puoi contare il tempo. Lasciati andare. Thank you.

It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Quanto stile! Altra Diesis Simon. Un altro pezzo? Diesis. Ma sì, subito, dai. Certo. Possiamo fare un pezzo solo io e Benedetta. Ah, voglio. Ci posso? Sì, chiamiamola al telefono. Avete il numero per caso? Benedetta che ti... No. Ha detto che proprio non riesce a venire, cioè ci ha provato, ma ti ha dato buca, ti ha dato buca. Ma canterò io, non so. Va bene. Se ti va. Fa la canzone. Cioè. La sai Luca Flop? Sì, mi sta di sì. La fa sempre lei, Nina Simone. Sì, sì, no, infatti l'ho già sentita. Dai, dai, proviamo. Vai. In che tonalità la facevamo? Adesso mi sembra in mi. Mi sembra. Vera del lato sud lì. Va bene, allora mutiamo tutti gli altri e facciamo un cruciverba intanto e vi lasciamo. never go. I love you so. Commenti a caldo, Morgana? Beh sì, fantastico, quasi, quasi commovente. Dovreste suonare più spesso insieme. Quando gli astri si incrociano? Ci permettono di incontrarci, magari. Si suonerà. Per fortuna è venuta Benedetta. Per fortuna, infatti, sono contenta, devo dire, di aver avuto questa occasione, sennò... tutto il divertimento a lei, sì. No, infatti. Va bene. Yeah, yeah, yeah. Allora, in tutto questo il batterico Mannaro ci ha abbandonato. No, no, spero di no. Sì. Anche Silente è andato. Dire se posso. Sì, sì, sì. Anche Silente si è silenziosamente defilato. È andato a prendere il gelato. Sì, giù all'Elisir. Come suo solito. Qui ci si tratta bene a frittole. Sì, allora, quindi proveremo. Intanto, vabbè, Palmiro parte. Inarrestabile. Sì, sì, sì, sì, sì. Tappetaci. Sì, allora. Abbiamo 20 minuti prima che parta una replica di Uhuru, forse. Uhuru. E cosa... Alle 10 dovrebbe. Una replica, io ho visto ora che Uhuru non fa puntate da marzo. Ah, ok. Bene. Per cui magari non c'è neanche la replica, possiamo andare. Salutiamo Uhuru e assolutamente sì. Ci auguriamo che riprendano presto. Ci uhuriamo. Vabbè, scusa. E se no io chiederei un'altra canzone al nostro ospite. E poi chiediamo di nuovo a Diesis se ha voglia di cantarci un brano. Va bene, evviva. Che brano ci proponi, Oistro? Prossimo pezzo si intitola New Shoes ed è la triste storia di uno spacciatore. New shoes, but there's no time to run as I am late. I can't wait for my week to be over. My friends, they aren't really sweet as they pretend to know me. My mind and how I changed them. That's odd. The world is turning faster, still I'm not prepared to face the collision. Give me 2 grams, my friend, and rack up a line. Somehow I need to push my tears back. Here's the cash, my friend. Now give me my white, my white. Yeah. Somehow I feel like I deserve it. Give me 2 grams, my friend, and rack up a line. Somehow I need to push my tears back. Here's the cash, my friend. Now give me my wife, my wife. Yeah. Somehow I feel like I deserve it. Sometimes I have the feeling the system wants to suck my soul and sell it cheap. Everyone still going straight. Those cops, they finally did catch me. Well, I guess I know my right to shut a fuck. My right to shut a fuck. My right to shut a fire up. Ma che stile, signore! Oh, stile. Bellissimo! Cioè, cantate, cioè, cantate. Cosa ci racconti in questa canzone? Ben... Danni, danni. Allora, c'è... questo... questo personaggio che potrei essere io, potrebbe essere chiunque di voi, claro, con un lavoro che gli impiega molto tempo, molto poco tempo per vivere, e il frigo sempre vuoto, la mamma preoccupata perché comunque non mangia, fa una vita malsana. E allora cosa dice lui? Mi metto a spacciare. E allora va dal capetto di quartiere, si prende la roba a chiodo, comincia a smazzare in giro, e però ci rimane un po' sotto dalla cocaina, insomma, comincia a pippare. E allora, prima cosa che fa, appena c'ha 2 soldi in tasca, ovviamente si compra le scarpe nuove, però comunque fra il lavoro ufficiale e il secondo lavoro non c'ha mai tempo per andare a correre, quindi cosa se l'è prese a fare? I suoi amici cominciano a dire: sei cambiato, non sei più quello di prima, e lui li sfancula, e lui non è pronto ad affrontare la vita, a quanto pare. Ma un giorno trova, cioè questo non si capisce bene dal testo, però nella mia idea è come se lui un giorno si radicalizza e si rende conto che fa una vita agra, sfruttato, e decide di ribellarsi. E in quel momento lo arrestano. No. Lo arrestano? Sì, perché quegli stessi poliziotti che aveva visto prima, che stavano passando ma non per lui, in realtà erano corrotti e si erano già messi d'accordo col boss. E quindi quando lui si vuole ribellare al boss, Ah, ok. E il boss decide di far cadere lui. Quindi è una triste storia di periferia, come ce ne sono tante. Come ce ne sono tante. Questo brano è tuo? Sì. Insomma, la morale può essere: non mettete la vostra vita nelle mani degli altri. No, o quantomeno, se spacci non pippare. Che anche questo. Il gong. Yeah. Il gong suona. Della chitarra. Se spacci. Va bene. Grande, spaccavo un sacco. Senti, ma dove si possono trovare queste tue canzoni? Oltre che nel podcast di questo, okay, di questo, okay, programma, perché è un'anteprima assoluta, quello per Frittole. Yeah, che onore. E... ma si troveranno poi? Su tutte le piattaforme digitali, okay, a pagamento. No, dai, scherzo. Si troveranno, sicuramente sarete i primi a saperlo. Appena le butterò fuori. Esatto. Ottimo, ottimo, assolutamente. Tutti i diritti riservati a Frittole. Speriamo sia venuta bene la registrazione. Allora. Beh, il sentimento c'è, anche se il suono. Tutte le cazzate le togliamo, le tagliamo. Senti, che si fa? C'è un'altra canzone per noi di Esis? È tornato. No, scusa, stavo cazzeggiando. È tornato il batterico in questo momento. No, io ho semmai un gran finale, ma proprio il finale. Ma secondo me 21:53 potremmo anche smettere. 21:53? Sì. Si chiude, ragazzi. Possiamo anche andare a cena. Si fa l'ultimo brano e si chiude alle 10. Mo basta, eh. Mo basta, veramente. Abbiamo altri contenuti? Chiudiamo. No. Facciamo quella che abbiamo fatto. La pasta. Cioè, quale? Da Gypsy. Quella Gypsy. Ah, è vero, c'era anche quella. Va bene, dai, facciamo quella. Va bene, salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono qua a assorbirsi tutte le nostre chiacchiere inutili. Speriamo stiate facendo qualcos'altro, non state ascoltando noi. Per la vostra salute mentale. Vi posso descrivere la scena. C'è il nostro ospite insieme a Palmiro che provano a fare una quadra su quelli che sono gli accordi. Phil mi guarda come. Non ho detto chi è. C'è un po' di confusione stasera. Abbastanza. Anche i migliori possono sbagliare. Anche le merenda forte. Abbiamo una leggera anteprima di quello che sarà il pezzo. Yeah. Questa è spazio. Vai. Ma si può chiudere l'anzo? No, si chiude ora. Si chiude con questo pezzo. Le mandi play. Ciao. si stacca reverendo. È tardi. Ci sentiamo tra due domeniche. Chi lo forse sa? Lo sentiamo. E... c'è uno che vuole dire qualcosa? Lo volevo ringraziare. Giusto. Volevo ringraziare Frittole e tutto quello che ci gira attorno per la magia di questa puntata e di tutto quello che ci gira attorno. Che romantico. Grazie. È stato un piacere per noi. Grazie di essere stato qui. Assolutamente. Salutiamo Benedetta. Ciao Benedetta, ti aspettiamo quando puoi. Raggiungici presto. E niente, mandiamo uno spottino e andiamo a cena. E chiudiamo. Reverendo, io e te ci rivediamo fra due settimane forse. Quindi, chi lo sa. E siateci. Non lo sappiamo. Ascoltate il nostro podcast. Ascolta le repliche, accedi al nostro blog. We'll be right back. your favorite song? Translation, ven aquí mami, así culo. Tú quiero que mi huevo, si papi mores, espero chuparse puto pendejo, el pinche cabrón. Let's get it, nice like this, I'm a knight like this. Sword in my hand, I fight like this, and I'm more than a man, I'm a god. Bitch, touche, on guard. Two pay trap and a two just pop out of that tank top and bra. And when I say do, do, do, do, bitch, that BK dog. She wants some more of this, I give her more of this, I owe this. In fact, I know she missed the way I floored this. I'm focused, I know my Houston partners drop a four in this. Focus and slow it down, down. Alright, let me blow this bitch. I'm famous, I blame this on you. Cash in the pair, I hang, get my penthouse roof. Skyline, the clearest project, your optics. Popping out, you look the weirdest. Pop my top on the 105, head with no power steering. Ah, oh, oh, luxury. Chitty ching ching, could buy anything. Cop that, oh, oh. Collard greens, 3 degrees low, make it hot for me. Drop that. Function on fire, burn the roof off this mother site. What is calling? Go crazy like no other weed, steady blowing. Pass the bud to my mama, runs in the family. But puff, keep a nigga fiending. Faded, faded, faded, right? Glass super size, she gon' get some dick tonight. Meet me at the W and know it's not the west side. Stick it up your south side. Baller, futuristic, groovy, gangster with an attitude. But these niggas make a year, I spend that on my daughter's shoes. Smoking weed and drinking, all the college students loving you. We gon' turn it out until the neighbors wanna party too. Oh, oh, luxury. Chitty ching ching, could buy anything. Cop that, oh, oh.